Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. Herman era scivolato in un sonno profondo, dal quale qualcuno lo stava svegliando. Aprì gli occhi nell'oscurità e non capì dove si trovava. Con Jadwiga o con Masha? Mi sono messo con un'altra donna, si domandò. Ma la confusione si protrasse soltanto per pochi secondi. Naturalmente si trattava di Tamara. «Che cosa c'è?» domandò Herman. «Voglio che tu sappia la verità». «Quale verità?» «La verità è che non ho avuto nessuno. Non tre uomini, non uno, nemmeno mezzo uomo. Nessuno mi ha anche soltanto toccata con il dito mignolo. Questa è la verità di Dio». Tamara si era drizzata a sedere sul letto e lì, al buio, Herman ne sentì l'intensità, la decisione di non sentirsi fino a quando non l'avesse ascoltata. «Stai mentendo», le disse. «Non mento. Ti ho detto la verità la primissima volta, quando me lo hai chiesto. Ma sembravi deluso. Che cosa c'è di anormale in te? Sei un pervertito?» «Non sono un pervertito. Mi dispiace, Herman, ma sono pura come il giorno in cui mi hai sposato. Dico mi dispiace, perché se avessi saputo che ti saresti sentito così defraudato, avrei potuto cercare di accontentarti. Senza dubbio non mancavano gli uomini che mi desideravano». «Siccome parli con entrambi gli angoli della bocca tanto facilmente, non riuscirò mai più a crederti, Tamara». «Bene, allora, non credermi. Ti ho detto la verità quando ci incontrammo in casa di mio zio. Forse vorresti che io ti descrivessi qualche amante immaginario soltanto per soddisfarti? Sfortunatamente la mia immaginazione non è abbastanza abile. Herman, tu sai quanto mi sia sacro il ricordo dei nostri bambini. Preferirei tagliarmi la lingua piuttosto che profanarne la memoria. Giuro su Yocheved e su David che nessun uomo mi ha mai toccata. Non credere che sia stata una cosa tanto facile. Dormivamo sul pavimento, nelle stalle, le donne si concedevano a uomini che quasi non conoscevano, ma quando qualcuno cercava di avvicinarmi io lo respingevo. Vedevo sempre davanti a me i visi dei nostri bambini. Lo giuro su Dio, sui nostri figli, sulle anime benedette dei miei genitori. Nessun uomo riuscì anche soltanto a baciarmi in tutti quegli anni. Se non mi credi nemmeno adesso, allora ti supplico di lasciarmi sola. Dio stesso non riuscirebbe a strapparmi un giuramento più solenne». «Ti credo». «Te l'ho detto, Herman. Sarebbe potuto accadere, ma qualcosa non lo consentì. Che cosa fu, non lo so. Ma anche se la ragione mi diceva che non esistevano più nemmeno le tue ossa, sentivo che in qualche luogo continuavi a vivere. Come si può capirlo?» «Non è necessario capirlo. Herman, c'è un'altra cosa che devo dirti». «Quale?» «Ti supplico non interrompermi». «Prima che venissi qui, il medico mi ha controllato lo stato di vestito e disse che ero perfettamente sana, ero riuscita a sopravvivere a tutto, alla fame, alle epidemie. In Russia lavoravo duramente, segavo tronchi, scavavo fossati, spingevo carriole piene di sassi. La notte, invece di dormire, spesso dovevo curare i malati che giacevano accanto a me sulle nude assi. Non avevo mai saputo di possedere tanta forza. Presto troverò un lavoro qui e, per quanto faticoso possa essere, sarà sempre più agevole di quello che dovetti fare laggiù. Non voglio continuare ad accettare il denaro del comitato misto e voglio restituire i pochi dollari che lo zio si è ostinato a darmi. Ti dico queste cose perché tu sappia che, Dio me ne scampi, non sono venuta qui per chiederti aiuto. Quando mi dicesti che ti guadagnavi da vivere scrivendo libri per un certo rabbino, il quale li pubblica col suo nome, mi resi conto della tua situazione. Non è questo il modo di vivere, Herman. Stai distruggendo te stesso». «Non sto distruggendo me stesso, Tamara. Sono un rottame già da un pezzo». Che cosa sarà di me? Herman, non dovrei dirlo, ma non potrò mai mettermi con nessun altro. Ne sono sicura, come sono certa che adesso è notte. Herman non rispose, chiuse gli occhi, come per godersi un altro momento di sonno. Herman, non ho più nessuna ragione di vivere per nessuno. Ho gettato via quasi 2 settimane, mangiando, passeggiando, facendo i bagni, chiacchierando con ogni genere di persone, ma sempre ho continuato a dire a me stessa, perché lo sto facendo? Cerco di leggere, ma i libri non rivestono alcun interesse per me. Le donne seguitano a darmi consigli su come dovrei comportarmi, ma io cambio discorso, scherzando e chiacchierando di cose insignificanti. Herman, non esiste un'altra via d'uscita per me. Devo morire. Herman si drizzò a sedere sul letto. Che cosa vuoi fare? Impiccarti? Se un tratto di corda può porre termine a tutto questo, beh, allora che Dio benedica il cordaio. Laggiù avevo ancora qualche speranza, in effetti. Mi ero proposta di stabilirmi in Israele, ma quando seppi che tu eri vivo, tutto è cambiato. Ora, di speranze, non ne ho assolutamente più. E questo fa morire una persona più rapidamente del cancro. L'ho notato molte volte. E ho visto anche l'opposto. Una donna in Russia giaceva sul letto di morte. Poi ricevette dall'estero una lettera e un pacco di viveri. Si drizzò a sedere e guarì immediatamente. Il dottore scrisse un rapporto al riguardo e lo mandò a Mosca. E quella donna è ancora viva? Morì di dissenteria un anno dopo. Tamara, anch'io non ho più speranze, le mie sole prospettive sono la prigionia e l'espulsione. Perché dovrebbero imprigionarti? Non hai rubato a nessuno. Ho 2 mogli e presto ne avrò una terza. Chi è la terza? Chiese Tamara. Masha, la donna di cui ti ho parlato. Dicesti che era già sposata. L'uomo ha divorziato da lei. È incinta. Herman non sapeva perché stesse rivelando questo a Tamara, ma a quanto pareva aveva bisogno di confidarsi con lei, forse di scandalizzarla con i suoi ingarbugliati legami. Bene, congratulazioni, sarai di nuovo padre. Sto impazzendo, questa è la mala verità. Sì, non puoi essere sano di mente. Dimmi, che senso ha tutto questo? Lei ha paura dell'aborto. Quando si tratta di queste cose non puoi costringere nessuno, ma non vuole nemmeno che il bambino sia illegittimo. Sua madre è una donna molto pia. Bene, devo promettere alla Santissima di non sorprendermi più. Ti concederò il divorzio, potrai andare dal rabbino domani stesso. Non ti saresti dovuto rimettere con me in queste circostanze, ma parlarti di coerenza è come descrivere i colori a un cieco. Sei sempre stato così o ti ha conciato in questo modo la guerra? Davvero non ricordo che tipo di essere umano tu fossi un tempo. Te l'ho detto, ci sono periodi della mia vita dei quali ho dimenticato quasi tutto, e tu... Sei soltanto frivolo o forse godi a soffrire? Mi trovo in una morsa e non posso liberarmene in alcun modo. Presto ti sarai liberato di me e potrai liberarti anche di Jadwiga. Dalle i soldi per il viaggio e rimandala in Polonia. Rimane sola e inattiva tutto il giorno nell'appartamento. Una contadina deve lavorare, deve avere figli, andare nei campi al mattino e non starsene chiusa come un animale in gabbia. Potrebbe impazzire in questo modo. E poi, se dovessero arrestarti, Dio ce ne scampi, che cosa sarebbe di lei? Tamara, mi ha salvato la vita. È per questo che vuoi distruggerla? Herman non rispose. Aveva cominciato a far giorno. Riusciva a distinguere la faccia di Tamara, stava prendendo forma ed emergeva dall'oscurità, un pezzo qua, un pezzo là, come un ritratto che venisse dipinto in quel momento. Gli occhi di lei lo fissavano spalancati. Sulla parete di fronte alla finestra, la luce del sole proiettò a un tratto una chiazza che somigliava a un topo scarlatto. Herman si accorse del freddo che faceva in quella stanza. «Mettiti giù, ti buscherai una polmonite», disse a Tamara. «Il demonio non mi porterà via così presto». In ogni modo si ridistese, ed Herman coprì lei e se stessa con la coperta. Abbracciò Tamara, e lei non gli oppose resistenza. Giacquero insieme, senza parlare. Sopraffatti tanto dalle contraddizioni quanto dalle esigenze contraddittorie del corpo. Il topo di fuoco sulla parete divenne più pallido, perdette la coda e ben presto scomparve del tutto. Per qualche tempo la notte tornò. Aye, giant of dick. I don't sign with Glick. Heute kommt er nicht. Herman trascorse il giorno e la notte precedenti la vigilia di Yom Kippur in casa di Masha. Shifra Pois aveva comprato due galline propiziatorie, una per sé e una per Masha. Avrebbe voluto comprare un gallo per Herman, ma lui gliel'aveva proibito. Già da qualche tempo ormai stava pensando di diventare vegetariano. Ad ogni occasione faceva rilevare che quanto i nazisti avevano fatto agli ebrei, l'uomo lo stava facendo agli animali. Come ci si poteva servire di un pollo per redimere i peccati di un essere umano? Perché un Dio compassionevole avrebbe dovuto gradire un simile sacrificio? Questa volta Masha diede ragione a Herman. Shifra Pois giurò che se Masha non avesse celebrato il rito, lei se ne sarebbe andata da quella casa. Ma, dopo essersi rassegnata con riluttanza e aver fatto girare in aria la gallina sopra la propria testa, recitando le preghiere prescritte, Masha rifiutò di portare i polli all'uccisione rituale. Le due galline, una bianca e una rossiccia, giacevano sul pavimento con le zampe legate e gli occhi dorati che guardavano in tralice. Shifra Pois dovette portarle lei stessa a farle uccidere. Non appena sua madre fu uscita di casa, Masha scoppiò in lacrime. Tutto il suo volto divenne contorto e bagnato. Si gettò tra le braccia di Herman, gridando: «Non posso più resistere! Non posso, non posso, non posso!» Geht Jontev Dick. Ei, Schimmen soll schon sein mit Glick. Ei, du Trampen, nix! Lui le diede un fazzoletto perché si soffiasse il naso. Lei andò nel bagno ed Herman sentì il suo pianto soffocato. In seguito Masha rientrò nella stanza con una fiaschetta di whisky in mano. L'aveva già svuotata in parte. Un po' rideva, un po' piangeva, con la capricciosità di una bambina viziata. Gli accade di pensare che con il progredire della gravidanza, Masha stava diventando inopportunamente infantile, era tutta leziosaggine da bimbetta, ridacchiante, persino scherzosamente ingenua. Gli tornò alla mente la frase di Schopenhauer, secondo il quale le femmine non raggiungono mai la piena maturità. Colei che partorisce bambini rimane una bambina lei stessa. In un mondo come questo rimane una sola cosa. Whisky. Qua, bevi, disse Masha, accostandogli la fiaschetta alle labbra. No, no, non fa per me. Masha non gli si offrì quella notte, si addormentò subito dopo cena, dopo aver preso una pillola per dormire, vestita di tutto punto, si distese sul letto in preda a un torpore ebbro. Herman spense la luce nella sua stanza. Le galline, a causa delle quali Shifra Pois e Masha avevano litigato, erano già state immerse nell'acqua, sciacquate e poste nella ghiacciaia. Una luna che non arrivava ai tre quarti splendeva al di là della finestra, diffondendo la sua luce nel cielo della sera. Herman si addormentò e sognò cose del tutto estranee al suo stato d'animo. In qualche modo scivolava giù per una collina di ghiaccio, servendosi di un aggeggio che era una combinazione tra i pattini, una slitta e gli sci. La mattina seguente, dopo colazione, Herman salutò Shifra Pois e Masha e andò a Brooklyn. Il tragitto telefonò a Tamara. Sheva Haddas le aveva preso un posto nel settore della sinagoga riservato alle donne perché potesse assistere alle preghiere di mezzanotte. Tamara, dopo aver augurato ogni bene a Herman, come una moglie pia, soggiunse: «Qualunque cosa accada, non hai nessuno che ti sia più vicino di me». Jadwiga, pur evitando la cerimonia rituale della gallina fatta piroettare in aria, aveva, il giorno prima di Yom Kippur, preparato challah, miele, pesce e pollo. La sua cucina mandava esattamente lo stesso odore di quella di Shifra Pois. Jadwiga digiunava per Yom Kippur. Aveva comprato un biglietto alla sinagoga con i $10 che era riuscita a risparmiare sulle spese della casa. Riversò ora il proprio risentimento su Herman, accusandolo di andare in giro con altre donne. Lui cercò di difendersi, ma non riuscì a nascondere l'irritazione. In ultimo arrivò al punto di darle urtoni e di prenderla a calci, sapendo come, nel villaggio di lei in Polonia, per le mogli essere percosse dai mariti fosse una manifestazione d'affetto. Jadwiga cominciò a piagnucolare. Gli aveva salvato la vita e lui la ripagava con percosse proprio alla vigilia del giorno più santo dell'anno. La giornata terminò e scese la notte. Herman e Jadwiga consumarono l'ultimo pasto prima del digiuno. Jadwiga bevve 11 sorsi d'acqua, poi le avevano consigliato di trarre le alcicine per prevenire la sete durante il digiuno. Herman digiunò, ma non andò alla sinagoga. Non sapeva indursi a essere come uno di quegli ebrei assimilati che pregano soltanto nei giorni santi. A volte pregava Dio, quando non stava lottando contro di lui, ma restare in piedi nella casa di Dio, con il libro delle preghiere festive tra le mani, e lodarlo come prescrivevano le costumanze, beh, questo non poteva farlo. I vicini sapevano che Herman, l'ebreo, restava in casa, mentre sua moglie, la gentile, andava a pregare. Si riraffigurò intenti a sputare, pronunciando il suo nome. A modo loro lo avevano scomunicato. Jadwiga aveva indossato un vestito nuovo, acquistato per pochi soldi a una liquidazione. Si era avvolta un fazzoletto intorno ai capelli e aveva messo al collo una collana di perle false. La fede nuziale, compratale da Herman, sebbene non fosse stato con lei sotto il baldacchino nuziale, le splendeva al dito. Portò con sé alla sinagoga il libro delle preghiere festive. Era stampato in ebraico e in inglese, ma Jadwiga non sapeva leggere nessuna delle due lingue. Prima di uscire, baciò Herman e disse in tono materno: «Chiedi a Dio una mano di aiuto». Poi scoppiò in lacrime da brava ebrea. Le vicine la stavano aspettando al pian terreno, ansiose di includerla nella loro cerchia e di insegnarle quel poco di giudaismo tramandato dalle loro madri e dalle loro nonne e che, durante gli anni trascorsi in America, si era diluito e deformato. Herman iniziò un andirivieni. In genere, quando rimaneva solo nell'appartamento di Brooklyn, telefonava immediatamente a Masha, ma nella festività di Yom Kippur Masha non parlava al telefono, oltre a non fumare. In ogni modo provò a chiamarla, perché aveva notato che non c'erano ancora 3 stelle in cielo. Non rispose nessuno, però. A Herman, solo in casa, parve di trovarsi con tutte e 3 le donne, Masha, Tamara e Jadwiga. Come un indovino, poteva leggere nei loro pensieri, sapeva, o almeno credeva di sapere, in qual modo funzionasse la mente di ognuna di loro. I rancori delle 3 donne contro Dio si fondevano con i rancori contro di lui. Loro pregavano per la sua salute, ma chiedevano altresì al Signore Onnipotente che cambiasse le abitudini di Herman. In quel giorno, nel quale Dio veniva tanto onorato, Herman non se la sentiva di porre a nudo la propria anima per lui. Andò alla finestra. La strada era deserta, le foglie cominciavano a ingiallire, cadeva di ogni giorno la faccia di vento. Sulla boardwalk non si vedeva anima viva, in Mermaid Avenue tutti i negozi erano chiusi, era Yom Kippur e a Coney Island regnava il silenzio, un silenzio tale che dall'appartamento si poteva udire lo scroscio delle onde, forse per il mare era sempre Yom Kippur e anch'esso pregava Dio. Ma il suo Dio era come il mare stesso, eternamente immoto, infinitamente savio, indifferente all'estremo, spaventoso con la sua potenza senza limiti, legato da leggi immutabili. Stando lì alla finestra, Herman tentò di trasmettere messaggi telepatici a Jadwiga, a Masha e a Tamara. Le consolò tutte. Augurò loro buon anno, promise affetto e dedizione. Andò in bagno, quindi si distese sul letto, vestito. Non voleva ammetterlo, ma tra tutte le sue paure, la più grande era quella di diventare di nuovo padre. Paventava un figlio maschio e ancor più temeva una femmina, la quale avrebbe costituito un'affermazione ancor più forte del positivismo da lui respinto, della schiavitù che non desiderava affatto essere libera, della cecità che non voleva ammettere di essere cecca. Herman si addormentò e Jadwiga lo svegliò. Alla sinagoga, gli disse, il cantore aveva intonato Kol Nidre e il rabbino aveva predicato sollecitando fondi per le yeshiva della Terra Santa e per altre cause ebraiche. Jadwiga si era impegnata a versare $5. Disse a Herman, con un certo imbarazzo, di non volere che la toccasse quella notte. Era proibito. Si chinò su di lui e lui le scorse negli occhi un'espressione che aveva veduto sul volto di sua madre durante le grandi festività. Le labbra di Jadwiga tremavano come se fosse stata sul punto di parlare, ma non ne usciva alcun suono. Infine bisbigliò: «Mi farò ebrea. Voglio avere un figlio ebreo».